vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate. Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo. Sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano. Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi. Ma ti devi vergognare tu e le persone. Io tanto non gli ho dato del tu, le ho studiato del lei. Comunque lei, ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu. Un linguaggio così scurrile. E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe? Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo. E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè, spegni la radio, non ci rompi i coglioni. Io ti lo vedi, lo vedi. Tu del tuo figlio della mignotta. Ma scusa, non bisogna dire le parole. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Non ho detto gioia. Dubbiosa Collective. Cruciani, io sono Stella del Regno Unito e anch'io mi faccio il bidet nel lavandino. I fucking love my radio. Svegliati dal tuo sonno eterno! Yeah! Sono Simone da Massa e anche a me fa cagare Catanzaro. I love my radio. Milk is really healthy, is it good for your bones? Who invented rock? Beatles or the Doc? AIDS or cancer? Is there any remedy? Basta con sti cazzo di audio di Porro, ci hai rotto i coglioni. Sei una vergogna, sei il manutengolo di Porro. Il suo sgherro, il suo bravo, sei il capezzone di Radio 24, sei. Ti chiameremo il Cruciazzone. Vergogna, vergogna. Dillo anche tu, dillo. Molto uno. Bene. 2, 3, vergogna, Cruciazzone. Capezzone. Sì, ma allora, nell'ordine, numero 1, secondo, terzo. Caro Davide, ti pare normale quello che è successo in un posto che si chiama Campiglia Marittima? È da questa mattina che mi stanno bombardando di mail, di immagini, di video, eccetera, eccetera. Campiglia Marittima, provincia di Livorno, se non sbaglio, un signore, un uomo di colore, un immigrato, pare un non signore, regolare. Un no, un immigrato un non regolare, un immigrato probabilmente un signore, irregolare. Una persona, un signore. Ah, una persona, una persona. Uno che uccide e arrostisce un gatto, secondo te una persona. È una bestia. Ma il fatto che sia di colore. Arrostisce un gatto. Di colore cinese. Ma io quando uno commette, dice una follia, non è che dico il cinese. Comunque, fammi riassumere un peruviano, quello della zanzara, non lo dico. Questo signore della Costa d'Avorio. È un incivile. Questo signore della Costa d'Avorio, di anni 23, benissimo, molto probabilmente malissimo. Irregolare, ha ucciso, in realtà non si vede dalle immagini, qualcuno lo sostiene, ucciso e poi arrostito un gatto con le proteste di una signora. Di mattina presto è stato a un certo punto prelevato dai carabinieri e scarcerato. Ragazzi, questo succede in questo disgraziato paese. Monterosa 91 20 149 Milano. Applausi, grazie. Siamo qui vivi e vegeti, per fortuna, nonostante i menagrami come te maledetti, perché qui sostanzialmente, andiamo alla sostanza, è tutto finito, ragazzi. Viva la libertà, vai. Viva la libertà, è così ragazzi, viva la libertà, è così. In collegamento ovviamente dalla 7, David Parenzo, vai David Parenzo in collegamento Buonasera, buonasera cari amici, e viva e viva. Le voci da Campiglia Marittima, le voci da Campiglia Marittima di questa signora che è imbufalita con l'extracomunitario. Imbufalita con l'extracomunitario. Tu dici poteva essere uno qualunque, per carità, assolutamente. Non ci sono solo loro, sì, che arrostiscono i gatti. È pieno di italiani che ad esempio abbandonano il proprio cagnolino, sì, per l'autostrada. No, ma anche molto meno, ma molto grave, che abbandonano i cagnolini sulle autostrade perché iniziano le vacanze. È piena la storia di questa roba. Intanto qui c'è un atto di violenza in più, ovviamente. Tu, ma stai sottovalutando un cane la cosa, stai sottovalutando la cosa, no, come al solito. Sto sottovalutando, stai dicendo che magari nulla, aveva guarda. Fame. Magari aveva fame, no, preso ma dai morsi della ma fame. Tu, ma tu mi dici, stai bene, dicendo, ma ha fatto bene detto. A prendere un gatto. Ma non ci ho manco pensato, questo è quello che pensi magari tu. Magari lo pensi sul serio, tu. Cioè, questo preso è quello dai che morsi tu. Per questa infame società detto. Italiana che non gli offre magari un tetto, non gli offre un pasto. Ma che cosa fai? Ha la fatto bene, per... no. Ma allora, se devi dire quello che dico io, fai lo sceneggiatore e dimmi quello che devo dire, ma non lo penso. Ma sarò capace di intendere, di volere e dire quello che penso. Secondo me lo pensi, questo qua. Che questa trasmissione deve essere chiusa illico atque immediato, questo è il punto, subito. Io da noi qui gatti non si mangiano, lo sai? Da noi qui gatti non si mangiano, qui da noi i gatti si tengono in casa. Beh, come adesso. Se fossero figli nostri. Non è che io fai fra... non ho cosa, non ho cosa, non ho cosa, non vuol dire qui non siamo. Dove vai tu? Però volevo segnalare la gentile signora incazzata dicendo che qui da noi i gatti non si mangiano. Qualcuno di voi sicuramente avrà sentito quest'audio, naturalmente è un audio preso al volo da uno che faceva delle immagini. Beh, insomma, in qualche posto d'Italia in realtà ancora si dice che i gatti si mangiano. Certo, non in pubblico, non davanti a una stazione, non arrostendo la mattina presto questo gatto che forse è stato ucciso dallo stesso. Ti mando in galera, dice la signora. E no, cara signora, perché in Italia non vai in galera se uccidi, arrostisci. Non so, magari è anche giusto che non si vada in galera, perché secondo l'articolo del codice penale, beh, non si va in galera, è stato immediatamente scarcerato. Ora ti mando io in galera, te ne vai in galera, te ne vai, vergogna, guarda che stai a fare, vergognati, vergogna, cosa fai, a mangiare, te ne vai al lavoro come lavorano tutti. Invece di tenere anche le sigarette, i soldi ce le hai delle sigarette e non hai soldi per comprarti il pane? Vergognoso, schifoso, schifoso che non sei altro, schifoso, vergogna, guarda qua, guarda che sta a fare sta povera creatura, guarda qua. Allora, se avete sentito bene, la signora dice hai soldi per le sigarette e non per il pane, dice, perché aveva trovato le sigarette. Vabbè, accanto, questo qua che fumava. Beh, anche questo è corretto, diciamo, da un certo punto di vista. Sì, io comunque sì, vorrei sapere chi è questa signora, la vorrei abbracciare perché ha avuto un moto di rabbia, l'istinto di andare verso questo signore che stava arrostendo un gatto. Allora, io vi dico la sincera verità. Se uno ha fame, se uno ha veramente fame e trova un gatto morto, chi se ne frega, lo prende e se lo cucina se vuole, succede in qualche posto barbaro. Beh, ma succede, però ammazzare un gatto apposta per cucinarselo, ecco, siamo insomma. Però se uno è veramente affamato, questo non sembrava uno proprio preso dai morsi della fame, cioè, ma non cosa sembrava vuol dire uno se uno è veramente affamato cosa fa? Mangia un umano, ma che vuol dire? No, capito, se uno però, ragazzi, se uno, se uno guardi, scusi, era però, veramente scusami, affamato, tu ti senti di condannare, guardami, scusi, ero veramente affamato, no, però scusami un attimo, ma dai, ma di che stiamo, no, però, parlando, scusami, tra su, uno, no, non insomma, è questo il caso, però tra uno veramente veramente affamato, cioè tu fai il caso limite, uno è veramente affamato e ha bisogno, cioè non gli danno da mangiare, è lì abbandonato, eccetera. Guarda eccetera. Che tu che non trovi sei veramente affamato, strada, guarda che tu che non sei veramente affamato perché guadagni, sì, 500.000 euro l'anno, sì, e hai milione, la qualifica di inviato milione a Radio 24 pur non facendo l'inviato, sì, e stando sempre con il culo fisso dentro quella dunque, radio, quindi non sei c'entra inviato di nulla. Cosa hai c'entra mangiato in passato la nutria pur non essendo affamato. Che non sì, solo, per una grande hai mangiato culturale, anche una serie una di altri animali proibiti che non sono possibili. Quindi è inutile che adesso fai la morale. No, al contrario. Perché tu hai mangiato una cosa che è equivalente, dicendo, al gatto. Ma sto dicendo al contrario. Io sto dicendo che se uno è veramente, non è questo il caso, ma se uno è veramente affamato. E tu non lo sei stato veramente affamato. No, io affamato, che c'entro, sto parlando di un signore. Mettiamo che questo signore della Costa d'Avorio, ma può essere anche uno di Udine, può essere anche uno di Bergamo, può essere anche uno della Slovenia, non mi interessa. Uno che è veramente affamato incrocia un gatto nella sua strada. amico mio, tra l'uomo affamato e il gatto, alla fine è una lotta di... No, vince la sopravvivenza, vince l'istinto. È vero che oggi ci sono tutti gli istituti che ti possono dare da mangiare, la Caritas. Però alla fine non me la sento di... Se veramente questo aveva bisogno di mangiare, non credo. Se questo qua ammazza un gatto per sopravvivere, perché bisogna stare lì a dire oddio un gatto ammazzato, vabbè, cioè sono milioni di gatti, questa ha ammazzato un gatto per un bisogno ancestrale, ma non me la sento di condannare fino in fondo. Poi per carità, non aveva bisogno, è una bestia, è quello che volete, però mettetevi nei panni di uno che ha veramente bisogno di mangiare, incrocia il gatto e se lo mangia il gatto, che problema c'è? Qual è il punto? Non lo capisco io questo perché qual è? Ti scandalizza il gatto adesso tra un immigrato perché affamato il gatto? E il gatto, preferisci il gatto? No, adesso, tra, adesso no, non dimmelo, niente, l'immigrato, dimmelo, affamato, tra l'immigrato affamato e il gatto, chi preferisce, Parenzo? All'immigrato ma affamato qua, gli si danno le cose da mangiare normali dai tuoi e di animali non sociali. Proibiti sì, ma non c'entra bene. Niente, questo non c'entra assolutamente. Sentiamo ancora la niente. Signora, tornate dal tuo paese. No, per carità, è una cosa barbara, però io mi metto nei panni di uno veramente affamato. Magari non è questo il caso, che incrocia ma un gatto. Ma quando mai ti sei messo nei panni di uno veramente affamato tu? Ma quando mai? Ma quando? Ma chi la racconti? Che c'entra? Vergogna, vergogna, ma dove sei andato a vostro paese? Andatevene a mangiare, vedo che le sigarette qui ci sono, però. Quindi non è mangiare quelle, non è mangiare quelli, non si comprano. Invece di comprarti 50 sigarette, comprati il pane invece di ammazzare la creatura. Ma è una cosa vergognosa la stazione di Campiglia, ha ammazzato un gatto, sta cucinando un gatto qui alla stazione di Campiglia. Una cosa vergognosa, da vergognarsi, da vergognarsi. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cosa? Cioè, ma che cazzo di livelli siamo arrivati, figa? A Campiglia c'è un negro che arrostisce un gatto per mangiarselo. Ma dove cazzo ci avete portato, infami di merda? Dove cazzo ci avete portato, maledetti luridi bastardi? Perché non sono loro ad essere venuti qua, siamo noi che ci ritroviamo nell'Africa più nera. Ma andate a fare in culo! Chi era quel cretino di poc'anzi? We ought to run another round. My girl's nowhere to be found. Allora, troviamo il tuo amico Capezzone che è molto incazzato per il fatto che ieri a Salvini non è stato permesso di fare un comizio, di fare politica Capezzone. Sostanzialmente a Mondragone. Ora io Capezzone. Voglio dire una cosa, è vero Capezzone. Che Salvini sei è sei l'unico in Italia che ha la mania di Capezzone, l'unico in Italia. L'Italia c'è una televisione nazionale, una televisione nazionale in cui no, è in diretta ogni sera, che cazzo vuoi? Ma tu allora sei che l'unico vuoi? In Italia che ha una passione per Capezzone, ma l'unico, hai? L'unico in Italia. Ma cosa hai con Capezzone? Hai qualche problema con Capezzone? Non ho capito. Dico che sei l'unico in con nessuno ha problemi, dico che sei l'unico in Italia che considera Capezzone un maître à penser degno ogni giorno di una citazione. Ma se tu avessi fatto mezza cosa Capezzone. Di quella che ha fatto Capezzone nella vita saresti cosa ha fatto Capezzone nella vita? È stato in politica, ha fatto tante cose. Ha mai lavorato Capezzone nella vita? Ma che vuol dire? Dici? Non ha mai lavorato quanto te? Quanto hai lavorato tu? Io lavora, ma tutt'altro, io faccio giornalista quando avevo 24 anni, lui non ha mai fatto un cazzo tutta la vita. Ma di che stiamo parlando? Questo stai esagerando. Ha fatto politica, certo. Questo stai esagerando. Allora stai dicendo che chi ha fatto politica non ha fatto un cazzo. No, che è contrario a quello che dici tu di solito, populista, la mia secondo logica. La tua logica populista, lui ha fatto solo politica. Comunque, Capezzone dice altro? Che Salvini, ma ti ricordi qualcos'altro? Cosa? Ma no. Non lo so, ha fatto politica tanti anni, non lo so prima che cosa fa. E poi cosa faceva. Ha fatto? Ma non lo so, non mi interessa. Che me ne frega di che cosa ha fatto prima? Non lo so. Come che me ne frega? Lo citi ogni giorno come ma fosse. Ma perché ospiti in una trasmissione e esprime delle opinioni, la stella di Rosetta, la stella di Rosetta. Ma quale stella di Rosetta? Dice che a Salvini è stato, e tu non dici niente, è stato impedito di parlare sostanzialmente. Ma dei sì, centri sociali ieri, Salvini va nei posti dove succedono cose di cronaca. Questo forse per te non non va bene. Questo è un saltare addosso, è uno sciacallaggio. Per molti è uno sciacallaggio. No, fa, la campagna, fa la campagna elettorale perché si vota a settembre, tutto qua. E perché molto gli altri semplice. Che fanno? Non fanno campagna elettorale, gli altri che sono dei lui santi. Fa una vai gli altri lì, sono fa santi. La campagna elettorale. Gli altri sono santi. Va, invece. La gli altri, va lì, gli altri invece sono baciati. Quando gli altri vanno, signore, queste cose non succedono. Quando gli altri vanno, queste cose non succedono. Queste cose sono successe come prima. Mai? Ma perché ci sono i centri sociali e qualche coglione che vuole impedire a uno di parlare, punto. Cioè, è molto semplice la cosa. La democrazia ma dovrebbe prevedere che se anche uno parlato, fa il buffone, certo, anche certo. Se uno vuole fare le sue passerelle, faccia le passerelle, senza quelli ma che gli vogliono impedire altro. Di fare le passerelle. Le passerelle fanno parte della politica, poi può essere contestabile. Ma infatti, può essere criticabile. La contestazione, allora, ma forza. Certo, certo. Confesso, l'onorevole Migliore non mi ha convinto per una serie di ragioni. Perché? La prima, io mi aspettavo che un rappresentante della maggioranza per prima cosa questa sera esprimesse la condanna dell'aggressione subita dal leader dell'opposizione. E invece io da questo pomeriggio sento sui social, nelle trasmissioni, eccetera, o silenzio o sociologia o addirittura il giochino di dire è colpa sua che c'è andato, vecchio gioco che si faceva sulla violenza delle donne, se l'è cercata perché ha messo la minigonna. Prima questione, ma lei la esprime solidarietà a Salvini questa sera o no? Lei la esprime solidarietà a Salvini o no? Vedo che vede con soddisfazione il fatto che si possa ritornare a parlare di ordine e sicurezza non avendo mai fatto neanche un progetto di legge. No, io ancora sto attendendo che lei esprima solidarietà al leader dell'opposizione. Deputato vedo della che Repubblica, lei non lo fa, mai è impegnato di a fare volantinaggio. Mai occupato di questi argomenti, mai. Noi non ci giriamo dall'altra parte. No, no, voi siete proprio altrove, voi siete chiusi nei salotti umani e il territorio l'avete completamente No, non è che noi siamo altrove. Lei non è credibile, questo è il problema. Aspetta, e io ritengo, ma lei pensa io sono giro va bene, qualcuno, va bene, Karima, sì, Karima, fermi tutti. Allora ragazzi, io non so se sia vera questa cosa qua, se sia lui l'autore di questa roba qui, sto tornando a parlare della Calabria, ma c'è Klaus Davi che avrebbe creato una pubblicità, praticamente uno spot pubblicitario in cui si dice che siccome al nord si muore di Covid bisogna preferire le spiagge calabresi, vi giuro così così, venite qui a Jesolo, rischiate il Covid. Una trovata di marketing. La pubblicità calabrese dei sindaci della Locride, che hanno prodotto uno spot pubblicitario con le immagini delle spiagge venete. Lì c'è inquinamento e non si rispettano le distanze di sicurezza. Andarci è un azzardo, ci sono stati migliaia di morti. Così è, così. Venite in Calabria. Cioè, venite in Calabria, al nord rischiate il Covid. Questo è stato ideato da una serie di sindaci della Locride e realizzato dall'amico Klaus Davi. Spero non sia così. Venite in vacanza da noi, il nord è inquinato ed a rischio Covid. È a rischio EasyJet. Tu non avevi, che, avevi detto che era cosa, tutto lecito. Ma no, che è uguale. Tu hai, è sei incoerente. Ma cosa perché dici? Allora sei tutto ma lecito, perché lo critichi? Ma scusa, tutto lecito. Mica ho detto che bisogna andare in galera. Mica ho detto che vanno arrestati e va proibito. Però tu ho hai giustificato che, quello ho detto che fece i sindaci della Locride dicono una falsità, perché non è vero che si rischia il Covid lì e invece in Calabria non si rischia il Covid. È una puttanata. Ma è vero che al nord ci sono ancora più casi che in tutto il resto d'Italia. Purtroppo è andato di fatto. Se tu attesta bene, se attesta bene. Bene, se a te sta bene la pubblicità che hanno fatto questi signori, in cui si dice no, le spiagge lì come sono non mi inquinate, bene neanche c'è l'inquinamento. Ma sei tu che difendevi EasyJet, l'incoerente sei tu. Ma EasyJet ha fatto una pubblicità a favore tu, della Calabria, io. Mica contro qualcuno. Che cazzo ma dici? Ma quale a favore? Ma quale Giovanni a favore? Da Foggia, ma Giovanni da Foggia, vai. Giovanni. Ma che a favore? E come no? Giovanni dalla provincia di Foggia. Dimmi. Quel lanetto del cazzo dice che hai incominciato a lavorare a 24 anni. Ma che cazzo di lavoro hai 25, fatto? Tu hai incominciato a 14 anni, cretino. E quella comincia da 14 anni sui camion, Giovanni. Vabbè, d'accordo. Ho telefonato per dire che sono al fianco di quel signore di Mondragone che ha avuto il divertimento con il Ligoriano. Il nigeriano, quelli che ammazzano i gatti. Queste sono tutte persone che che vuole quel nanetto che c'è a fianco a te. No, quello è della Costa d'Avorio, quello che ha ucciso e mangiato. Beh, è la stessa cosa, la Costa d'Avorio, la Nigeria. Ma ho capito, sono là. La Costa d'Avorio è una cosa, la Nigeria è un'altra. Però comunque va bene. Ma sono uguali, non è che cambia qualcosa. Uguale. È come se dicessi tu sei uguale a un francese? Sei uguale a un francese? No. Allora, la Costa d'Avorio. Un francese europeo, occidentale, fa parte. Ho capito, ma se ti dico che sei uguale a un francese, tu dici no, io sono italiano. Uno della Costa d'Avorio non è uguale. Comunque, vabbè, quello della Nigeria, certo. Che c'è? È voluto da Parenzo? Lo vuole Parenzo quello della Nigeria? Tutte persone che i bulgari, quelle che superano, quelle che pisciano. I bulgari sono un'altra cosa ancora, i bulgari. Quelli che urinano in mezzo alla strada sono anche gli italiani, amico caro. Lei, ad esempio, sono sicuro che più volte ha fatto pipì in mezzo alla strada. Ne sono certo, sia da come parla. Andavi su in montagna a schiacciare la merda delle mucche, che quello sì, questo voi. Anche è vero, da ragazzino, anche questo è vero. Questo che siete voi, adesso, mi permetto di dire che i militanti comunisti non credo facessero questo mio gioco infantile, mi permetto di dire, ma non lo so poi. Ma scusa Giovanni, tu come ti permetti a dire che io ho pisciato e cagato in mezzo alla strada? Ma perché è sicuro, sono sicuro dal, questo è sicuro, posso dirle perché ne sono sicuro? Invece di sbagli, io le persone come lei le sento, io le sento dalla voce, proprio dalla voce, dalla voce, con lo stomaco per terra, perché ti vuoi arrampicare sui sperchi. Sui sperchi, tu sei la rovina di questo paese. Perché la rovina di questo paese? Tu quella gente che tu vuoi, tu sei la rovina di questo paese. Ma tu che cosa fai? Io però insieme agli altri sono una rovina. Giovanni, la tua ricetta per l'immigrato che arrostisce il gatto, qual è, diciamo, qual è la tua ricetta? Quale sarebbe la tua punizione? C'è una legge che chi arrostisce i gatti, chi maltratta gli animali, c'è una legge che... Sì, ma tu che cosa faresti? Sì, ma tu cosa faresti personalmente se incrociassi questo signore, Giovanni? Cosa faresti? Io sono impotente, non posso fare niente. Io ho le mani legate. Che tu sia impotente, che tu sia impotente, che tu sia impotente, secondo me non c'è dubbio. Che tu sia impotente, secondo me non c'è dubbio, Giovanni. Impotente di che? Non ti preoccupare, abbiamo capito tutti. Abbiamo capito tutti. Fermilo là, fermalo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta la zanzara. Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta, tanta, tanta paura? Sì, mi dica. La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito, perché mi stai spronando, mi stai suggerendo. Più mi dici di no, dimmi di sì, dimmi di sì che non lo faccio, dimmi di sì. No, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito. Eppure il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il signor Parenzo. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. Buonasera, bentornati fra di noi sulle note dei Rolling Stones che suonano qui a fianco. Vi presento l'ineffabile David Parenzo e l'eclettico Luca Telese. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Capezzoni. Sarà l'attuale ministro dell'economia il candidato del centrosinistra a Roma, nella capitale d'Italia? E l'IVA, il famoso taglio dell'IVA che il premier Conte vorrebbe tanto fare, alla fine si concretizzerà? Di tutto questo parliamo questa sera con il plenipotenziario dell'economia, il ministro Roberto. Ah, pare, ti sto guardando sulla setta, è più fondotinta tu che la puttana dei parioli. Collegamento con Freccero che stava spingendo per intervenire. Signor Freccero, che c'è naturalmente Carlo, che io c'è? Sento che naturalmente che parlate della 7, naturalmente fate questi spot naturalmente, sì, sulla rete, che c'entra questo? Sulla ottima rete della 7 naturalmente. Allora mi candido a lavorare naturalmente, a fare il consulente naturalmente. Ma consulente, sì, dai, mi hanno cacciato dalla Rai perché Renzi è stato, adesso la 7 è la TV libera, almeno si va a lavorare alla 7, dai, che creiamo nuovi format. L'altro giorno sono andato alla Rai, sì, naturalmente, sì, l'ho fatto anche oggi, sì, oggi dando sì, le mie rimostranze per la questione del gatto. Cioè, che c'entra? Come gatto? Molto grave che il servizio pubblico non abbia mandato lì le telecamere mentre il gatto veniva arrostito, naturalmente. Beh, devo dire che sarebbe stato un grandissimo ma come si fa a bucare una notizia come il gatto arrostito la mattina? Dai! A lei dice Freccero che uno mattina doveva fare uno speciale in diretta. Gravissimo, ma gravissimo. Uno mattina naturalmente di che cosa si occupa? Sì, di creme, virologi. Sì, di creme. Invita le persone per accarezzare i cani e i gatti in studio. C'è questa rubrica terribile, odiosissima. Si chiama Amico Cane. Ma dai, ma come si fa? Ma invece non funziona. Che bisognava fare? Il cane, naturalmente le ricette con gli animali, naturalmente. No, ma... naturalmente una rubrica che funzionerebbe molto sarebbe tutte le ricette con gli animali impossibili, ad esempio dare sugo al cane, naturalmente questo in diretta funzionerebbe molto. Bisognava fare la diretta dell'arrostimento del cane con l'immigrato, la diretta, c'è tutto due dentro. Telecamere, un inviato, attenzione, stanno per arrostirlo, il pubblico da casa che decide quanto lo volete cotto, come, dai. E invece niente, il servizio pubblico è morto, l'ho detto subito io, morto, dai. Sarebbe stato anche forte una cosa di questo tipo. Cioè, ma naturalmente realtà, il fatto esiste, la realtà. Naturalmente. E invece voi siete sempre fissati con Don Matteo, naturalmente, con i preti, con i virologi, con le dirette dei virologi ancora del Covid. Dai. Debole, debolissimo. Ho capito, sarà debole, però. Andrea da Gorizia, dai, Andrea da Gorizia. Dimmi, Andrea. Da Gorizia, non sarebbe male l'idea di Parenzo, eh? Parenzo. È Freccero che vuole fare una grande diretta. Vorrebbe fare una grande diretta. Idea bellissima. Una grande diretta del gatto arrostito, effettivamente, devo dire. Gatto. Naturalmente, sono 40. Si può mettere uno spot in mezzo, naturalmente. Si fa i primi 20 minuti. Piccolo spot pubblicitario. Torniamo tra poco. Attenzione, il gatto sarà pronto, non sarà pronto, collegamento, sì, la pubblicità, che urla, torniamo la tra che poco pure va. Quelli che urlano, si crea il clima naturalmente che sale, le proteste, naturalmente. E poi si riprende il giorno dopo naturalmente, cosa è successo, facciamo rivedere il filmato naturalmente, rivedendo poi c'è stata tutto, la sanificazione tutto della zona naturalmente, sono intervenuti a sanificare la carcassa, vedete, del gatto che è rimasta. Naturalmente vedete che il racconto continua, vedete che ormai anche voi iniziate a ragionare televisivamente naturalmente. Tutta la soap opera. E come staranno i fratelli del gatto? Dai, anche i fratelli del gatto da intervistare. Dimmi, Andrea, ma quale, no, ma guarda, i fratelli del gatto? No, a parte scherzi, cioè la gente secondo me non dovrebbe neanche scandalizzarsi troppo, fino a quando che in Italia facciamo entrare questa gente qua, non è che ci possiamo lamentare, no? Tu dici il Parenzo di turno non si può lamentare se poi vediamo degli immigrati che arrostiscono i gatti. Ma chiaro, io avrei voluto vedere la signora lì di Castiglione, dov'è? Avrei voluto sapere che cosa votava, visto che un Parenzo lo chiede sempre. Ma chi? Quale signora? La signora è quella che si scandalizzava del gatto arrostito, no? Allora gli chiederei, ma tu cosa votavi anni fa? Tu vuoi dire la sinistra perbenista, magari. Cioè, tu vuoi dire che la colpa di quelle immagini lì che abbiamo visto, di quel video che è circolato in tutta Italia, è della sinistra che ha fatto entrare gli immigrati? Questa è la sostanza. Parenzo, hai da dire qualcosa a questo signore? Tu stai dicendo che la colpa è anche di Parenzo, stai dicendo che la colpa è anche di Parenzo. Accogliamo, accogliamo, e poi ci troviamo a Campiglia Marittima. Ci troviamo a Campiglia Marittima. Ho capito, questo stai dicendo. Ascolta, no, io condanno apertamente quello che ha fatto questa persona, no? Però voglio dire, ormai in Italia entra la feccia da anni. Non ci dobbiamo lamentare, non ci Parenzo, come vuoi rispondere ad Andrea? Rispondi ad Andrea da Gorizia, allora rispondi ad Andrea. È un argomento. Mi manderà sicuramente. No, ma non mi permetterei mai di dire che lei è un cretino, un poveretto, un idiota. Non avrebbe alcun senso darle del cretino, perché lei mette insieme cose che non possono stare insieme. Quindi non voglio dirle che è un cretino. Non glielo voglio dire perché sono educato. È un idiota. Non glielo voglio dire perché sono una persona educata. Ma persone che associano argomenti diversi sono vabbè, Massimiliano da Napoli, vai Massimiliano, dimmi. Ciao Giuseppe, dimmi. Senti Giuseppe, allora io volevo un po' attaccare su questo discorso dell'immigrazione di massa e volevo coinvolgere naturalmente Parenzo. Sì, cioè è perché non mi sembra normale che un immigrato... sbagliate. Non ti sembra normale che cosa? Lì, a fronte di uno che, che fa arrosto un gatto, lei parla dell'immigrazione di massa. Sì, io dico, lei dove ha studiato? Ha studiato all'Università di Libero, probabilmente, alla Libera Università di Libero, diretta da Vittorio Feltri. Senza insultarci. Senza insultarci, perché non avrebbe senso. Senza insultarci. No, io non posso. Lei entra. No. Tutti gli italiani dalla mattina fino alla sera. E non hai rispetto, hai capito? No, non insultiamoci. Io non posso prendermela con un idiota, quindi non voglio prendermi, cioè voglio usare non te la toni puoi bassi. Con te stesso, perché in pratica, quando uno è un idiota non ha senso, non ha senso che io me la prenda. Che è successo a Enzo Salvi? Sì, l'hanno aggredito, che è successo? Non mi ricordo. Sì, hanno aggredito il pappagallo di questo un immigrato anche lì, ma non è che non esistono aggressioni in Italia da parte di altre persone, non è che esistono solo gli immigrati che aggrediscono. L'immigrazione di massa comporta un grave problema per il nostro paese. Se quel coglione di Parenzo avesse studiato un minimo di storia invece di accanirsi solo contro Mussolini e andare il 25 aprile. Ma perché tu sei un ammiratore di Sua Eccellenza? Tu sei un ammiratore di Sua Eccellenza? Senza ombra di dubbio. Sei un ammiratore di Sua Eccellenza. Sei un ammiratore. Non ho altre domande. Pur condannando gli errori, sei un ammiratore di Sua Eccellenza. Siamo arrivati al punto che sei un ammiratore di Sua Eccellenza. Di Sua Eccellenza, il Cavaliere Benito Mussolini. Ma, che certo, cosa ha fatto di positivo il Cavaliere? Dimmi, di Sua Eccellenza, dimmi, Massimiliano. Prima di tutto ha ripristinato ordine in Italia. Ordine in Italia. Parenzo, rispondi, ti prego, dai. Perché non rispondi? Ma rispondi, Davide, ma rispondi. Il Partito Comunista, che è il partito più criminale della storia d'Italia, insieme a quello nazista. Quando uno è un cretino, è difficile. E poi in politica estera ha affermato l'invasione dei barbari in adesso Spagna, ha fatto bene, è stato determinato ha fatto bene in politica estera, Sua Eccellenza Mussolini. Nella Spagna, sì, nella guerra spagnola il suo stiamo parlando della guerra spagnola con un idiota, fermo lì. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. A puttanella di Radio 24 sei, e di Rete 4 pure. Cioè, sto ascoltando le puntate in podcast e tu che chiedi il suicidio del cassa integrato, veramente, veramente sei sceso, ma non in basso, di più. Cioè, proprio un coglione totale. Complimenti, Cruciani. Lei si sta sbagliando. Stefano da Milano è rimasto indietro, l'ascoltatore. Stefano da Milano, vai Stefano, dimmi. Eccomi. Dimmi Stefano, dimmi. No, dottor Cruciani, volevo soltanto uno spunto di riflessione. È chiaro, è giusto indignarsi per il fatto che quell'extracomunitario abbia ucciso forse e bruciato sicuramente un gatto. Però io mi domando che differenza ci sia tra bruciare, cioè tra arrostire un gatto e mangiare fagiani, uccidere oche, fagiani, anatre. Beh, insomma, cioè, è la solita storia. No, ma per un animalista, diciamo puro e duro. No, io non sono animalista, no, premetto. Ma... però una riflessione, volevo sapere un suo pensiero al riguardo. Cioè... Ma no, ma anche voi, se uno è animalista, chiaramente non fa differenza tra un gatto, diciamo, tra un gatto e un qualsiasi altro animale, non c'è dubbio. Dopodiché, poi noi in Occidente siamo un po' razzisti da questo punto di vista, distinguiamo, effettivamente un animalista, diciamo puro e duro, non distingue, e dunque se è un gatto o se è un agnello eccetera non ci dovrebbe essere differenza. Io non ci vedo niente di differente tra un gatto per esempio e un capriolo, per dire, mi fanno, ma non diciamo cazzate, qui in Occidente siamo razzisti, facciamo una distinzione e distinguiamo tra un gatto, un cane, un capriolo o un'altra cosa. Poi, cioè, poi il discorso dei sindaci di calabresi, quello è veramente aberrante, cioè fare uno spot per attirare dei turisti dicendo che nelle spiagge del Veneto piuttosto che della Romagna ci sia il Covid, da loro non c'è, veramente una cosa surreale. Ma quella è la pubblicità, diciamo, una volta si sarebbe detta com'è la pubblicità, diciamo, ad affossare, comparativa, sì, ad affossare, diciamo, l'avversario. No, però ragazzi, sì, ma che cazzo c'è, dicendo che lì si muore, qui invece no, lì non c'è distanziamento, invece qui c'è distanziamento. Non c'è distanziamento perché non ci va nessuno, perché non funzionano i depuratori da 20 anni. Nella Locride non c'è un depuratore, uno che funzioni, e con tutto che c'è una persona ogni 100 metri, 200 metri, l'acqua io è non sporca. Lo so, non credo che l'acqua sia sporca, non ovunque ci saranno depuratori. No, glielo questo dico, apparentemente non funzionano i depuratori. Enrico, quindi, da Milano, Enrico, dai, Enrico, dimmi. Sono io, sì. Dimmi. No, dicevo, al di là, ma scusi se io sono un po' proprio pignolo, ma che tecnica ha usato per ammazzare sto gatto? O era un gattino piccolo, questo nero? Perché un gatto di grande, cioè non è facile ammazzarlo. La signora ha visto che questo ha ammazzato il gatto. Non lo so, lì tutti quanti no. Nel filmato non c'è questa, l'uccisione del gatto non c'è. Se lui l'ha trovato può anche darti, perché guarda, io 30 anni fa che ho vissuto in campagna, c'avevo un gatto che mi mangiava i pulcini. Io ho preso questo gatto e l'avrei chiaramente ucciso. Sì, però tutti quanti sostengono che questo signore abbia ucciso il gatto. Ma come? Devono dire come? Non è facile ammazzare un gatto. Cioè, tu stai dicendo che non c'è la prova dell'uccisione del gatto da parte dell'immigrato. Effettivamente non ce l'abbiamo la prova. Se prendi un gatto con le mani, lui ti rende le mani come a brandelli. È presente? Vabbè, non esageriamo, dai. Se uno vuole ammazzare un gatto, adesso lo uccide un gatto. Cioè, non è semplice, lo uccide. Vabbè, non no, è che adesso. Beh, ho capito però. Sbatti contro un muro, mamma mia. Non lo so, se uno lo vuole, se uno lo volesse, figuriamoci. No, ma non per è carità, così, mamma mia, che orrore. Che diventano coltelli, diventano lame. No, ma sono d'accordo, quindi... con te, infatti non è la prova che abbia ucciso il gatto, non c'è, però bravo, io vedo ovunque, ho capito, però io vedo ovunque i titoli di tutti i giornali online, di tutte le testate, di tutte le possibili diavolerie sull'internet e sul web, in cui si dice uccide il gatto e poi lo arrostisce. Allora qualcuno che secondo dica, te è impossibile, secondo te è impossibile. È impossibile, la maniera in cui l'ha ucciso. Vabbè, Stefano da Milano, l'abbiamo io, Lucio da Verona, no, è abbastanza. Anch'io ho pensato, chi l'ha visto uccidere il gatto? Magari ha trovato un gatto morto. Cioè, l'ha trovato. Ma cosa c'entra? È ininfluente rispetto a tutto. Insomma, se hai trovato un gatto morto, che cazzo te ne frega? Lo fai arrosto, sono cazzi tuoi. Cioè, alla fine. Ma come che te frega? Cioè, ma fa schifo comunque. Sì, ma d'accordo, che vuol dire? Farà schifo, ma non c'è il reato. Cioè, perché se hai trovato un gatto morto per strada e lo fai arrosto, sono cazzacci tuoi. Cioè, non c'è né maltrattamento. Ma rimane non c'è una nulla. Barbarie. Fermo, lo stesso. Leggo Carmela. Leggo Carmela. Carmela? Ciao ragazzi. Ciao Carmela, come stai? Chiamato? Oh, cosa vuoi dire, Carmela? Mia. Carmela, la prostituta mamma dei parioli. Mamma mia. Volevi dire qualche cosa, Carmela? Dimmi. È meraviglioso. Questo è meraviglioso, diciamo, in generale quello che fai. Grazie. Dimmi tutto, Carmela, che hai fatto ieri sera? Parenzo è meraviglioso. Ieri sera ho visto Parenzo in onda sulla stella. No. Molto bene. Allora, Carmela? Che bello, intelligente. Che chiarezza le parole. Molto bello, intelligente. Grazie. Scusa, ti sta facendo. Ma com'erano i capelli un po' cotonati? Ti sei un po' eccitata a vedere Parenzo o no? Ma per carità, mentre ma lui per parlava mi sono eccitata, mi sono masturbata. Ma allora, sono... ma signora, mi faccia una gentilezza per piacere, non, guardi, non lo guardi, non lo guardi. Mi faccia, mi fa una gentilezza, guarda. Mi fa una gentilezza. Bello pompino. Ma non voglio niente, scusa, signora, pompino, grazie. Anche a tuoi ospiti. Ma non voglio niente di tutto questo. Voglio lei sono non deve guardare. Di te, parento, ma sei innamorata ma di te? Non deve ma scusa, per giuro, hai una bocchiccia che sicuro fai godere le donne. Sì, sì, questo secondo me è pure uno nascosto, guardi, da questo punto di vista, davvero, ha delle qualità nascoste. La prego, mi dia retta, guardi Capezzone, ma ti sta facendo dei complimenti, faccia quei servizi, ma stai sereno, ha visto ieri la trasmissione, viva, gli sei piaciuto, ma non mi interessa, era bello, vestito bene. Un po' ingrassato l'ho visto, Carmela, un po' ingrassatino no, l'ho visto. No, ma chi sta giusto. Perfetto. Maraviglioso. Io ho sentito pure che lui si sposerà, no? Sì, si dovrebbe sposare. Non l'ha detto ieri sera, naturalmente, però si dovrebbe sposare in una data, come dire, a venire. Però questo non significa nulla, anzi, uomini sposati da te vengono parecchi uomini sposati da te, immagino. Of course, io volevo andare pure al matrimonio di lui. Volevi andare? Io volevo che lui mi invitasse sul suo matrimonio. Guarda, ti porto, signora, io insieme, cara, al brasiliano. Non è il ti circo, porto io insieme... mi porta, signora mia, il matrimonio così non è il circo. Tu del convidato. Ma per carità, ma non c'è nessun matrimonio. Guardi, mi costringe a cancellare la data io del matrimonio. Io sono la reina del pompino, non parendo. Lei sicuro mi vede, che tu ti innamorerà faccia... di me. No, scusami, lei faccia questa cosa dalla vostra parte. Quello va benissimo. Ma potrebbe lei essere... vada da... ma potrebbe essere straordinario. Questa idea, scusami Davide, ma che tu come regalo ai tuoi invitati inviti anche Carmela, come quei film che c'è Penelope Cruz, che lei fa, è invitata a una festa e dopo arriva un sacco di clienti e lei dice ciao, domani mi chiama, già visto questi film. Poi scusami Carmela, le persone che vanno al matrimonio di Parenzo ti assicuro che hanno dei quattrini da spendere, che andranno al matrimonio di Parenzo, dunque tu puoi essere l'invitata ideale, il regalo agli invitati, una puttana invitata come regalo agli invitati. Beh, amico mio, ti sto apparecchiando tutto. Un grande matrimonio. Ciao Carmela, ciao tesoro. Ciao amore. Ciao tesoro. Ciao. Cosa pazzesca, ragazzi. Eravamo con Lucio da Verona. Lucio, vai, Lucio. Pronto. Dimmi. Vent'anni fa io ho conosciuto in treno una ragazza che sosteneva che sua nonna lì a Vicenza li allevava per mangiarli. Sì. E poi volevo chiedere a questi leghisti che chiamano, ma qual è più peggio? Un extracomunitario che mangia un gatto o Zaia che mangia polenta usei? Usei passerotti, uccidi i bambini. Ma quelle sono cose diverse. Ma questa è una cazzata. Quelli si possono mangiare, quegli altri no. I gatti non si possono ammazzare per cucinarli, mentre gli uccelli sì. Ma chi è che l'ha detto che non si possono mangiare i gatti? Ma non si possono mangiare i gatti, per legge non si possono mangiare, la legge lo dice. A me non me ne frega un cazzo. Ma fino a 30 anni fa li mangiavano, fino a 30 anni fa. Ma non lo so, non mi interessa. Ma cosa vuol dire? Dai, su, ragazzi. Ma dove sta scritto che i gatti e allora mangiateli? Ma mangiateli allora, che cazzo me ne frega? Non si possono mangiare quelli randagi, spiegami perché. Il passero sì, invece. Ma il passero è, voglio dire, secondo il passero cacciato secondo la legge, cacciato secondo quello che prevede la legge, si può cacciare. Amico mio, ma se a te dove piace mangiare il gatto, il cane, mangiatelo. Io sono vegetariano, ma lo immaginavo che sei vegetariano. Vegetariano, non vegano. Tu dici che non c'è nessuna differenza tra mangiare un uccello e mangiare. È peggio mangiare il passero, è più tenero il passero, è da fa tenerezza e lo uccidi con fucile il passero. E invece il gatto randagio, chi se ne frega, dice. Ma chi se ne frega del gatto randagio? Ma no, voglio sapere qual è peggio, perché Zaia che mangia polenta usei. Che c'entra Zaia? Che mangia polenta usei, sì, perché è una specialità veneta qua, e le mangia qua in Veneto polenta usei, no? E cos'è peggio? Perché adesso, perché tu fai la polemica, perché è extracomunità, contrario, no? Ma io non faccio nessuna polemica. Ma la sera che Zaia mangerà polenta Usei, fai la polemica, cazzo. Fai la polemica. Eugenio da Modena, no? Ma non rompere i coglioni. Eugenio da Modena. Vabbè, sì, no, Eugenio da Modena. Ma che cazzo me ne frega di Zaia che mangia polenta Usei? Ho detto Usei. Posso intervenire? Dimmi, Eugenio, dimmi. Ascolta, guardi, io ho sentito notizie del gatto e le immagini che guidavo. Mi è venuto una rabbia di. C'ho un lavoro d'osso dentro, nello stomaco, mi sembra diventare matto. Bravo, e non è possibile, non è possibile. Tu ospiti delle persone, li fai, li tratti bene, gli dai possibilità di inserirsi e ti ripagano in questo modo qua. Cioè, non ho capito, ma di chi stai parlando? Di chi stai parlando? Spiegami. Del nero che ha mangiato il gatto. Ma tu non puoi capire questo. Del nero che ha mangiato il gatto. Allora che c'entra? Quello ha parlato lui, mica me l'ho messo in onda io. Magari potessi parlare col nero che ha mangiato il gatto, lo metterei per fare una diretta di un'ora. No. Cioè, solamente col nero qui in studio, col signore della Costa d'Avorio. Mi fai parlare un secondo. Ho detto che non puoi capire. Questa notizia qua è una bomba elettorale. Tu non puoi capire quante persone. Questo può essere perché la Lega sicuramente la sta sfruttando. La Lega la sta sfruttando. Beh, ma che vuol dire questo qua? Questo non è che l'ha messo Salvini l'extracomunitario. Io ho sempre votato per il PD, sono di sinistra, però mi allora? Hanno rotti i coglioni. Ma che c'entra col PD? Scusami, però adesso volendo fare un collegamento, che c'entra il PD col fatto che il nero mangia il gatto? Non c'entra il gatto specifico, ma è questa tolleranza. Tu dici la tolleranza? La tolleranza ha creato le condizioni perché il ragazzo della Costa d'Avorio mangiasse, arrostisse il gatto davanti alla stazione. Non dite mica rompere i coglioni, che uno che ha fame mangia un gatto. Allora se ha ancora fame, cosa devo fare? Una la pigli in banca? Tanto ho fame. Ho fatto la rapina in banca, ma che cazzo di discorsi sono quelli lì? Ma ragazzi, tra fare la rapina in banca o mangiare un gatto, non so cosa. Ma se tu dai gli dici, sai, ho capito. Ciao, Jay. Ciao. Allora, caro David, con noi il direttorissimo che da poco, tra l'altro, ha compiuto 77 anni, Vittorio Feltri. Buonasera a voi. Eccoci qui, caro Vittorio. Naturalmente tu hai gatti, sei molto interessato. Beh, 77, auguri per il suo genetliaco. Allora, facciamo gli auguri sinceri. Qualche giorno fa. Lui se ne sbatte i coglioni degli auguri, penso, in generale. Vittorio? Cioè, non penso che ti interessi degli auguri del compleanno. No? Cioè, era un gesto di amicizia. Neanche un po'. Allora andate a quel paese. Cosa volete che vi dica? Allora, Vittorio, i gatti ti interessano molto. Di fronte a quelle immagini che hai visto di questo gatto arrostito, la pena, secondo te, che dovrebbe avere questo signore della Costa d'Avorio? Quale dovrebbe essere la pena adeguata? Ma guarda, io non sono un giurista, non mi azzardo a fare delle ipotesi in questo senso. Sicuramente il suo gesto è stato orrendo. Io amo particolarmente i gatti, per cui ritengo quasi che sia stato fatto del male a me personalmente. Sì, c'è poco da fare. Questi qui sono signori che arrivano chissà da dove, sì, sono abituati a mangiare qualsiasi cosa, ma qui se vedono un gatto, hanno la colina in bocca, e lì fanno quello che noi non faremo mai, almeno io, dopodiché. Devo dire. Cioè, tu dici che questi qua arrivano, vedono un gatto e non sanno distinguere tra un gatto, diciamo, e un'altra cosa commestibile, questo vuoi dire? Sì, magari anche un cugino avrebbero mangiato, non lo so perché. Un cugino. No. Adesso pure cannibali, Il cannibalismo è esistito. Il cannibalismo. Io non li conosco. No, tu dici il cannibalismo. Non mi risulta che in quei paesi che lì è una battuta, su David, una battuta, dai, su, dai. Scusami un attimo, Vittorio, se qualcuno prendesse il tuo ciccio, diciamo, no? Il tuo ciccio, sì, e lo in qualche modo lo arrostisse, lo facesse arrosto, lo facesse rosolare, sì, come stava facendo quel tizio là, quale potrebbe essere la tua reazione, diciamo, se tu vedessi questo signore? Non riesco a immaginarlo, so però con certezza che il mio ciccio non si potrebbe mai far prendere da un coglione come quel tizio che ha arrostito il ciccio. tu dici che il mio gatto è molto aggressivo, è un gatto vero, quindi se cerchi di fargli del male te lo restituisce con gli interessi. Quindi no. Impossibile che Ciccio possa essere catturato da quel signore 23enne della Costa d'Avorio. No, è impossibile, anche perché lui se ne sta in casa mia, al giardino, casa grande, fa quello che vuole. L'autista, il gatto? È che si fa catturare da un cazzone africano. No, per carità. Cosa vuol dire? Però a casa c'ha l'autista, il gatto l'autista. L'autista, non credo che c'abbia l'autista. C'ha l'autista di colore il gatto di Feltri, questo è sicuro. Sicuramente ha l'autista di colore. Ma perché? No, qui... Ho l'autista di colore. L'unica cosa di colore che abbiamo in casa è la tovaglia. Avete cacciato la donna di servizio nuova, non ho capito. Quella è stata sempre, come dire, una costante. Licenziata la donna di servizio. Ah, se n'è andata, ecco, vedi, se n'è andata. Come mai se n'è andata? Questa è una notizia. Perché ha letto i titoli di Libero e se n'è andata. Questa è la cosa più probabile che sia accaduta, guarda. Perché secondo te una persona che lavora per te non se ne può andare quando cazzo vuole? Ha letto i titoli di Libero, si è indignata e ha detto: io devo lavorare per questa cosa. Via, si è licenziata. Arrivederci. Questa però... Che cazzate di Isma? È probabile, è molto probabile, è molto verosimile. Bisogna curarlo. Ma sì, la notizia corretta. È: si è licenziata la donna di servizio di colore del direttore Feltri. Ma fare in culo ogni due minuti. Ma perché? Bravo, perché si arrabbia? Ti si è licenziata la donna di servizio e te la prendi con me? Ma io mica, guarda, che sei strano forte. Scusa, ti saluto e ti mando a fare in culo. Ma scusa, sono io il problema. Gli si è licenziata la donna di servizio e mi rompo il coglione. Se n'è andata perché ha letto i titoli di Libero: la parola negro, la parola porta delle malattie, si è fatta fare una rassegna stampa e ha detto: questo direttore, via. Scusa, ma non sarà così, non credo che abbia chiuso. Vittorio, lo so. Vittorio, niente, non so che succede. Vittorio, ci sei? Vittorio, richiama un attimo, richiama. Vittorio, fai scappare sempre tutti, sei incredibile, guarda. Sei incredibile, sei incredibile. Non mi pare di aver detto niente di particolare, diciamo, non so perché. Tu dici che i cannibali si comportano come cannibali, si comportano come... Niente. Allora, Franco da Frosinone, Massimo da Brescia, Massimo, dimmi. Sì, probabilmente il direttorissimo impegnato lì staranno mangiando il gatto, cazzo, che ne so io, dimmi Massimo. No, ma anche perché tieni conto del fatto che un gatto che cresce a Bergamo, da un benestante, con uno spazio enorme, gli daranno da mangiare come un maiale, sarà completamente rincoglionito, per cui... Gatto molto grosso, il gatto di Feltri è molto grosso, ma mangerà regolarmente. Ma adesso uno non può dare da mangiare al gatto quanto cazzo vuole. Però il direttorissimo diceva che non lo beccherebbe nessuno, tantomeno un immigrato. È molto difficile uccidere il gatto di Feltri, ti assicuro che io l'ho visto, è molto grosso, molto, ti incute quasi un certo timore. Amico mio, ci sono dei gatti che sono anche abbastanza. Comunque, se uno lo vuole ammazzare, poi riesce. Non è così impossibile uccidere un gatto. Vabbè, Massimo, dimmi una cosa rispetto al fatto che tu hai detto che l'immigrato avrebbe potuto trovare il gatto morto per strada e se ne mangiato. Non lo so, adesso le notizie. La notizia è che l'ha ammazzato. In realtà non c'è, nel filmato non c'è. Ma è impossibile mangiare qualsiasi animale morto, perché qualsiasi animale deve essere sgozzato, deve essere fatto uscire il sangue, perché altrimenti va in putrefazione in un nanosecondo. Quindi non lo so, Massimo. Non lo sai. Vabbè, ascolta, è impossibile tecnicamente. Quindi il gatto sarà stato ucciso per essere mangiato. Da chi è stato ucciso? Da chi? Ascolta, io non sono mica un investigatore di gatti. Ha fatto bene cosa? Ma scusa un secondo, se uno ha fame, desidera mangiare e probabilmente da lui questo non è un reato, ha fatto bene a ammazzarlo e mangiarlo. Però in Italia prendere un gatto per strada, anche se è un gatto abbandonato per strada, farlo fuori e mangiare. Poi io dico una cosa, che non è questo il caso, in situazioni estreme situazioni estreme, con la fame che hai addosso, ma non è questo il caso, e hai un gatto davanti, alla fine, oh ragazzi, mors tua vita mea, di questo si sta parlando. Se ascolti i nonni ti raccontano che mangiavano qualsiasi tipo di animale, anche in guerra o anche subito dopo la guerra, qualsiasi animale. Dunque tu stai assolvendo questo immigrato, lo stai assolvendo. Al 100%, perché non ci trovo nessuna differenza tra una mucca, un maiale, no scusa un secondo Parenzo, un maiale è un animale estremamente intelligente, quindi se tu dovessi uccidere un maiale ti faresti un miliardo. Però ragazzi, noi siamo da questo punto di vista, lo sappiamo, facciamo una grande differenza, siamo anche un po' razzisti, abbiamo distinto, abbiamo detto che alcuni si possono ammazzare, molti si possono ammazzare, alcuni precisamente quelli domestici non si possono mangiare, in particolare è due. È una cretinata, è una ma è così, sarà una cosa idiota, però è così, che ti devo fare? Cioè, per me non c'è, per me se autorizzassero a cucinare i gatti o i cani, io non farei nessuna battaglia contro questa cosa qua, cioè non farei nessuna battaglia, non mi interessa la cosa. Per me un gatto d'allevamento si potrebbe tranquillamente mangiare, un cane di allevamento Perché ci affezioniamo, perché ce ne abbiamo vicini, cane di allevamento. Ma metti che ci sia un cane d'allevamento che si può mangiare, un gatto non ci fa, è vero, gli animalisti veri non fanno nessuna differenza tra mangiare un gatto e mangiare una mucca o mangiare un vitello. Ma noi abbiamo, l'Occidente in particolare ha una tradizione diversa con gli animali. Però se vai a vedere perché la mucca, perché la mucca deve frego di quel. Perché la mucca, il maiale, ma perché la gallina, hanno un valore diverso, il gallo, rispetto al gatto? L'anatra. Ma non è una questione è di valore, perché ce li abbiamo in casa, è solo perché ce li abbiamo in casa. Ma certo, fermi certo. Tutti, come sono? Fermi tutti. La zanzara. C'è Dimitri di Belluno che vi chiama per dirvi quanto siete indecenti, poi c'è Susi di Rimini che non vi chiama perché non ha tempo da perdere in attesa, ma che vi incita a fare peggio, anzi il mio metro di giudizio, per quanto la puntata sta prendendo una piega indecente, sono in Mamma Mia di Parenzo. Più Parenzo dice Mamma Mia, più so che la puntata potrebbe regalare delle emozioni, anche perché è tipo come se prevedesse quanto ci possiamo spingere oltre. Avanti tutta! David, io te lo dico con estrema calma ed educazione. Io, senti che sto ancora sul camion, 19.30, sto ancora lavorando, devo ancora rientrare. Se per colpa tua chiudono la zanzara, io vengo sotto gli studi a Milano e ti penetro analmente. Mi sono spiegato? Tommy a canaglia, io ho bisogno della zanzara. Beh, questo è Tommy la canaglia, ragazzi, Tommy la canaglia che ti vuole penetrare analmente. Io direi di stare un po' calmo su questa chiusura, su questi appelli che fai di continuo. È molto semplice, siccome io sto a Roma, vada pure a Milano e arrivederci, grazie. Sì, lui dice Milano, ma potrebbe arrivare tranquillamente anche a Roma. Milano, vada, e ti vada consiglio, a Milano. E ti consiglio di non continuare più con questa cosa qui, perché Tommy la canaglia davvero ti ci vuole fare, me l'ha detto più volte. Davvero ti ci vuole fare, cioè io ti dico solo questo. Intanto non da so Tommy, sì. Ma come no, lo sai benissimo, è venuto pure qua in studio, ti ha fatto anche dei regali, inutile che fai finta di non conoscerlo adesso, regali. Conosci tutti i porno attori, alla fine li conosci tutti, tramite questa trasmissione li hai conosciuti tutti, conosci come conosci i ministri, meglio dei ministri, ammettilo, conosci i porno attori italiani, meglio dei ministri di questa Repubblica, meglio dei ministri di questo governo. Intanto si è rifatto vivo il nostro amico trapper o presunto tale Baby Sayan. Senti, quello contro Borrelli, senti. A Parenzo, quando cago te penso. Comunque, chi è che mi ha paragonato a 17-27 versione small? Ma che cazzo di paragoni fate? Lui fa una cosa, io ne faccio un'altra e voi vi fate i cazzi nostri. Vabbò, arrivederci. E ieri ho provato a telefonare per parlare in diretta con Parenzo, che volevo dire che quando cagavo lo penso. No, volevo dire due cose a Mr. Cruciani, visto che perché comunque siamo rimasti, cioè non ci siamo detti quello che dovevamo dire. A parte che non si sentiva niente, io stavo in montagna, stavo. E uno dice un giorno c'è una scusa, un giorno c'è una. Oh, e giro, vado di qua, vado di là. E boh, mica sono Borrelli io che lo prendo solo nel culo, E poi questo fenomeno continua ancora ad attaccare il signor Borrelli, lo ha minacciato dicendo lo prendo a coltellate, eccetera, eccetera, ma continua. Perché io mi domando perché le forze dell'ordine non intervengano, comunque, vabbè. Segnala tutto alla procura, tutto. Oh, Borrelli, sei un pezzo di merda, fanculo gli snitch come te, viva la droga. Viva la droga, mi fumo la droga, fanculo Borrelli, hai capito? Pup, pup. Sei uno snitch, Borrelli, bang, ti fanno. Francesco da Firenze, vai Francesco. Senti Cruciani, io vorrei parlarti un po' di questa attrazione che tu hai dimostrato nell'ultimo periodo per i vecchi. Cioè, come per i vecchi? Che secondo me tu non sei solo ricchione, come si dice in gergo zanzaresco, ma secondo me ti piacciono anche i ricchioni vecchi. Sì. A parte che se mi facessero gli uomini non sarebbe un problema, cioè ti dico, non sarebbe Però il problema è questo, che secondo me è l'unica maniera per spiegare certe cose. È Briatore, è Sgarbi, e mo pure Vissani. Ma Vissani è un mio amico, lo conosco da Adesso faccio come Donato da Varese, chiamami questo Vissani, perché gli vorrei dire, visto che è così impegnato in politica ultimamente, sì, gli vorrei chiedere se magari non può dare una mano. Ma non è impegnato in politica, interviene nelle trasmissioni a dire la sua. Fanculo, dai, che fa la propaganda a quell'altro lì. Ma che propaganda? Ha detto che ha votato Salvini, ma che cazzo vuol dire la propaganda? Ma che cazzo vuol dire? Perché non dire mai niente qua? Ma perché se uno dice di aver votato Salvini e fa propaganda per Salvini, ma che c'ha in testa, le pigne? Visto che Vissani si vuole impegnare in politica e si sta impegnando, io lo apprezzo molto. Mi chiedo perché non fa un passo in più e per esempio dà una mano ai suoi colleghi ristoratori donando a loro un po' di soldi che si è messo da parte non pagando le tasse. Ma che cazzo stai dicendo? Visto che c'è stata la condanna passata in giudicato per Cassazione, lo ha condannato, se lo è inculato. Ma lo sai quanta gente? Ma la sai quanta gente c'è? Che deve pagare 45.000 euro, d'accordo, una sanzione combinata al posto di una pena detentiva di 6 mesi. Allora, ho capito, ma sai quanti italiani hanno un contenzioso col fisco? Missioni con questa storia che non arrivano i soldi non arrivano per le teste di cazzo come a lui che certo. Non le pagano. Ma certo, che cosa? Perché quell'altro fa il Papa e Ciccia con Vissani, adesso invece lo attacca. Da parte non pagando le tasse, facendo un po' di bonifici ai ristoratori d'Italia. Chiamatemelo, dai, chiamatemelo. Finisce di cacare il cazzo. Chiamatemelo. Io non ho capito una cosa. Adesso vengo ad apprendere che c'è questa condanna che ha ricevuto non so quando, un anno fa. Vieni ad apprendere, sì. Ho capito, ma è un contenzioso fiscale. Tanti italiani hanno dei contenziosi fiscali. Sì, questo è vero. La sentenza è passata in giudicato. Il contenzioso è finito benissimo, nel culo di Vissani. Benissimo, il fisco. Aspetta un attimo, aspetta. Starà cucinando. Ma che cazzo sta cucinando? Mo vediamo. Eh beh, sì, c'è da fare. È uno chef. È chef. L'ultima volta ha cucinato si è fatto il semolino, che è un vecchio rincoglionito. Ma che cazzo dici? Semolino? Ma che cazzo dici? Che è rimane un grande chef italiano, certo. È un po' alle volte è un po' grossier. È un po' grossier. Su questo magari hai ragione, che è un po' grossier. Ah, non rompere i coglioni. Dai, personaggio grottesco, andiamo, dai, sta sbagliando. No, grossier. Ah, io non ho capito una cosa, adesso ci riproviamo, non ho capito. Scusami un attimo, è stato condannato allora in via definitiva dalla Cassazione. Non può parlare in televisione? Perché dice che lo Stato non c'ha i soldi da dare a quelli come lui. Lo Stato non ce li ha per colpa di quelli come lui. Quindi facesse il favore, se vuole fare il politico, di fare questa cosa qui, facesse una cosa concreta. Riproviamo, adesso ti ci faccio parlare, vediamo come gli rispondi a Vissani. Fammici parlare. Adesso perché uno ha avuto una condanna a 6 mesi dal fisco, figuriamoci. Poi cazzo per mesi con Mimmo Lucano, che poi è venuto fuori. Ma che c'entra Mimmo Lucano? Io ho detto un cazzo su Mimmo Lucano. Ma che dici? Ma che c'è? Sta cambiando il clima. Aspetta. Sta cambiando il clima. Aspetta. Mamma mia, sempre a succhiare il cazzo ai ricchi. Ma vai a fare in culo, tu succhi il cazzo. Io non ho mai succhiato il cazzo a nessuno. sta a leccare il buco. Ma non rompere i coglioni, Ricchi. Se Vissani... Sta cambiando il clima, eh. Ecco, sta quest'altro che lecca il culo a Vissani. Poi, naturalmente, quando non c'è Vissani, quando Vissani non è in diretta, lo attacca dicendo: beh, sì, effettivamente è stato condannato. Tra l'altro, poi ieri ho visto la prima puntata di Ronda, una cosa vergognosa, veramente. Cioè, veramente. Pronto, pronto. Gianfra, scusami, mettiti bene col telefono che c'è un coglione qui, un coglione in diretta che ti sta attaccando. Aspetta un attimo, mettiti bene col telefono un attimo. Ci sei? Sì, sì, ci sono. Allora, vecchia storia. Di quello che hai detto a noi adesso, di quello che hai detto a noi, Francesco, diglielo che non può parlare, detto, che non può parlare in televisione, perché non potrebbe parlare in televisione? Spiegamelo. Siccome ho visto che è molto adirato col governo perché non manda i soldi ai ristoratori e a quelli, insomma, in difficoltà in questo momento qui. Mi chiedevo se il signor Vissani, lo chef, se può dare una mano a questi colleghi ristoratori, ai quali tiene tanto, dando a loro un po' di quei soldi che si è messo da parte non pagando le tasse. Questo gli volevo chiedere, invece di rompere il cazzo in televisione, con Migliore, con quello e con quell'altro, facesse una cosa un poco concreta. Hai pagato tu i soldi delle mie tasse? Che cosa? Non si capisce quando parli, Vissani, non si stai rincoglionendo, non si capisce le tue tasse. C'hai la sentenza fatta del giudicato o no? Voglio dire, secondo te mi hai pagato tu i soldi che devo dare? Hai la sentenza passata in giudicato, sì o no? No, niente, non dire le cazzate. C'hai la sentenza passata in giudicato, sì o no? No! Devi pagare 45.000 euro al posto di farti 6 mesi di reclusione, sì o no? Ascoltami, non fare il coglione. Quindi non rompere il cazzo che poi il governo non c'ha i soldi, perché se non ce li hai, è colpa di quelli come a te. Sei morto di fame, dove cazzo vivi, imbecille? Hai capito, rincoglionito, un po' di quei soldi che ti sei messo da parte. Non dire cazzate, ha avuto un contenzioso fiscale e ha pagato 45. È finito il contenzioso, Cruciani, lo hanno condannato. E beh, che vuol dire? Ma quale condannato, Pirla, non sei... Coglione, che cos'è una sentenza passata in giudicato? Coglione, sei un coglione. Sei venuto pure fuori per il risarcire perché hai fatto ricorso e non lo potevi fare, rincoglionito. Ma che cazzo stai dicendo, imbecille? Allora, rincoglionito, smetti di tirare il cazzo al governo e comincia a pagare le tasse, oppure fai un po' di bonifici. Pirla, sei un comunista di merda, falla finita. Ma quale comunista? Non sei altro. Scusami. Ma tu sei un figlio della mignotta, da dove cazzo vabbè, non ti agitare che ti viene un coccolone, rincoglionito. Sei un cazzo e parli. Non ti agitare che ti viene il coccolone, rincoglionito, c'è su tutti i giornali, paga i 45.000 euro nel frattempo. Ma l'ha pagati i soldi, Francesca, hai rotto il cazzo, li ha pagati quei soldi, che cazzo vuoi, una persona che lavora ha pagato dei soldi perché ha avuto un contenzioso col fisco, ma che cazzo vuoi, Francesca? Ma che cazzo vuoi tu, scusami, ma è possibile che ogni volta che ci vado con i soldi li devi succhiare? Dimmi, Giafra, dimmi. Coglione, poi sentirei a settembre quando saremo tutti quanti in mezzo alla merda sulle piazze, coglione. Ancora, ma finiscila di politico, che sei ridicolo, che sembri un vecchio che urla le nuvole. Coglione, mettiti in cucina e fai il cerolino. Sei incoglionito. Scrofa, te lo dico io, tu. Ma lascia perdere, imbecille. Non sa un cazzo, ma non si capisce quando parli, rincoglionito. Ma non sai un cazzo, ma non sai un cazzo e parli. Che ne sai di questa cosa? Hai letto un articolo sul giornale e basta, Francesco. Cruciani, c'è la sentenza, rincoglionito. C'è la sentenza. Ma che c'entra? Stai sulla via dell'arte. Sei zitto, culo, imbecille. Che è successo? Imbecille. Gianfra, che è successo? Cioè? No, che ho letto, da qualche parte che pure Piroso, sai Piroso, conduttore? Sai cosa? Sai che ha detto Piroso? Ha detto: beh, non può parlare Vissani perché ha avuto sta sentenza passata in giudicato. Là. Stai zitto un attimo, che vuoi rispondere a Piroso? No, io Piroso è stato sempre un coglione nella sua vita, un comunista di merda. Infatti, ma quale comunista? Piroso no? Ma no, ma non è un comunista, ma che dici, Vissani? Dai, non è vero che è un comunista per niente. Non lo sai, ti sto dicendo che è vero, Parenzo. Ma quale comunista? Ma che c'entra? Ma che comunista? Ma ha fatto. C'ero io quando l'ho buttato fuori. So chi l'ha buttato fuori. Ma lascia bene, ma perché ce l'ha con te? Non ho capito. Ma Piroso ce l'ha avuto sempre con me. non ho mai potuto sopportare nel 1997 quando facevamo Domenica Inti, cambiava lui, cambiava il calcio. Vabbè. È andato sulla 7, l'hanno buttato fuori. Vabbè, ma l'hanno buttato fuori, lascia bene, questa è la vecchia storia. Giovanni Stella. Vabbè, sì, ho capito, ma quello non succede in tutti i posti che l'hanno buttato. Perché? Perché non gli piaceva. Adesso non so dove conduce. Non può parlare perché non posso parlare. Chi l'ha detto? Io sto difendendo i diritti dei miei... anch'io dico, siccome qualcuno ha tirato fuori sta storia qua, questo ascoltatore poi ho letto da qualche parte, tu dici perché uno non, non può parlare perché... Non cazzo nessuno, vabbè. Lascia perdere. Vabbè, ciao. Cazzo nessuno. Ciao Giafra, ecco. ciao. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento La Zanzara. Well, she's not in here. Ciao Giuseppe, sono attualmente in esame rispetto a un piede femminile, direi un piede greco, sì. Molto interessante, forse troppo lungo il secondo dito, però un ottimo smalto, direi Bordeaux. Sì. Una venatura abbastanza pronunciata, ma abbastanza tonica. Pelle liscia, tallone molto in linea rispetto, molto armonioso rispetto all'andamento. Mi sembra discreto. Sì. Ti mando una foto se la vuoi. Perfetto. Va bene. Ciao, sono Luca da Melzo e anch'io ho una fidanzata che non vuole fare sesso prima del matrimonio. I hate my radio. Allora Davide, vogliamo risentire tutto lo sgarbi furioso di questi giorni, a cominciare dopo lo scontro alla Camera eccetera. A cominciare come da no. Giulia Sarti, quella dei 5 Stelle, vai. Il caso Rubi era infinitamente meno grave dello scandalo Sarti, di filmini pornografici di una deputata che sono circolati, ma perché qualcuno li ha fatti, li hanno fatti di nascosto, no, li hanno fatti lei consenziente. Tu sei parlamentare, ti fai fare dei filmini mentre fai atti erotici e poi dici che sei vittima. Sì, sarai anche vittima. E allora questo è il punto. Ma è molto più grave di quello che ha fatto Berlusconi. In Parlamento fai la predica e dici che io dico le parolacce. E dice, poi lui parla alla fine del dibattito perché schifosa, ridicola, perché ha bisogno di fare dei colpi di scena per aumentare il suo cachet in televisione. Ma che cazzo dici? Ma quale che arrivano in televisione quando non eri ancora nata? Incapace totale, tu e i tuoi filmini. Io filmini non li ho mai fatti, non ci sono filmini Arda di sgarbi, i tuoi ci sono, vergognati. Tu e il vaffanculo di Grillo, e vaffanculo tu. Garbi ha detto le parolacce, penosa, ridicola. Questi sono i parlamentari, sono in Parlamento dietro il vaffanculo di Grillo e si scandalizzano se uno si incazza perché si dicono delle stupidaggini in Parlamento. Sgarbi è parlamentare, non se lo merita, non te lo meriti tu, eletta con i voti del buco del culo di Grillo, ridicola. Poi se la prende con la Morani del Partito Democratico, credo che sia viceministro, sottosegretario, non so a che cosa, è una Morani, sì. Morani. Alessia Morani, certo. La quale vuole che io mi dimetta da prosindaco di Urbino e invita a farmi dimettere il sindaco di Urbino, visto che lei sta a Urbino, perché altrove nessuno ha in mente chi possa essere, che si chiama Alessia Morani, la quale parla di insulti e volgari offese. Ma quali? Dove sono? Io non ho insultato nessuno, io ho fatto delle invettive, cara Morani. Allora, le parolacce, gli insulti di cui parla la Morani, dica quali sono. Si dimetta lei da parlamentare, traditrice di Renzi, incapace di difendere i cittadini, inutile Morani, tu ti devi dimettere. Allora abbiamo Lalla dalla provincia di Bergamo, vai, Lalla, dimmi. Sì, dimmi tutto ciò. Dimmi, cara Lalla, avevi già chiamato ieri, dimmi tutto. Cosa volevi dire, Lalla? Beh, niente, volevo dire che io sono contraria alle case chiuse, io faccio la prostituta. Ah, fai la prostituta, bene. Cerca di mettere bene il telefono perché sennò non sento, cara Lalla. Cioè, c'hai hai viva voce, l'auricolare, cosa hai? No, parlo così al microfono. Vabbè, dimmi tutto, sei una prostituta, allora, quanti anni hai, amica? Ah, io ne ho più di 50. Cioè, che vuol dire più di 50? Che ne potrei avere 45, ne poteva avere 55, l'importante è che sia brava di bocca. Poi io credo che l'età non c'entri niente. No, ma questo non c'è dubbio, infatti te lo chiedevo per curiosità, possiamo dire tranquillamente l'età, qual è il problema? Avrei 60 anni, che ne so, 65, quanti anni hai? Sarebbe interessante una prostituta di oltre 60 anni, stupendo, una particolarità, è una cosa, no, è una cosa anche per... Va bene, oltre 60, te lo assicuro di una cosa. Più di 60 anni. È l'esperienza che fa una prostituta. Non c'è dubbio, ma tu sei contraria a che cos'è? A favore o contro? No, io sono contraria alla prostituzione legale. Tu sei contraria alla prostituzione legale? Sì, sono contraria, perché ognuno permette che la figa se la gestisca come vuole. Lingua se la gestisca come vuole, senza che ci sia alle spalle nessuno che mi dicono. No, però lei dice questo, è contraria, io sono a favore, è contraria perché vuole stare... Ma intanto come mai le prostitute chiamano tutte in questa trasmissione? Questa è la prima cosa sulla quale interrogarsi. Vabbè, sulla quale chiama qua perché vuole dire la sua sulla legalizzazione. Ma no, questo ma diventa... Come mai le prostitute hanno preso come riferimento questa trasmissione? Questa scusami, è la prima Lalla, domanda. Io voglio capire una cosa. Dunque, tu hai più di 60 anni, lavori in provincia di Bergamo, sei contraria alla prostituzione legale e dici di essere molto, molto brava, diciamo, a fare i pompini, giusto? Se non sbaglio. I pompini integrali. I pompini imperiali, fanno tutti i pompini imperiali. Adesso sono riusciti a identificare la tua scheda, almeno su qualche sito. Italiana Doc, sono immune da qualsiasi malattia. Ho più anticorpi di una comune mortale, gli anticorpi si sassano alla barriera di ogni male. Faccio tutto per piacere, non per lavoro. A me piace far sesso come le vere professioniste. Mi piace farmi penetrare il lato B, con dolcezza, virgola, con violenza. Non ho capito, con dolcezza o con violenza? Qualcuno che non mi deve fare solletico, che lo faccia sentire, insomma. Mi piace se mi mordicchi i capezzoli, mi piace masturbarmi il clitoride. Ti ricevo con un vero bacio e con la lingua metto subito a bolla il tuo membro. Non è bella, metto subito a bolla il tuo membro. La roba molto, no, molto del nord, metto subito a bolla il tuo membro. Ti trascino a letto per terra dove vuoi dopo averti leccato con ma un leccare. Io però vorrei capire una cosa, tu sei contraria al fatto di pagare, non vuoi pagare le tasse in pratica. Esatto, uno che vuole comunque pagarsi la pensione, come ho fatto io che ho cominciato a 17-18 anni a mettere via qualche soldino mese per mese, ma per me adesso mi posso prendere la mia pensione e stare a casa a menarmela, ma dal momento che ho un lavoro redditizio non lo faccio, poi i miei soldini me li sono messi via per la mia pensione. Cioè, non ho capito, ma se adesso ti dicono che puoi pagare le tasse, non le vuoi pagare comunque perché non vuoi... Dovrebbe, se lei considera questo un lavoro nobile, almeno ci paghi le tasse sopra. Se non lo considera un lavoro, chi è che viene mandiamo... a difendere me? Ma chi è che viene a difendere me? Dov'è il sindacato? Chi è? Ma cosa vuol dire? Ho capito, amico mio, se tu ti fai pagare e in qualche modo guadagni, le tasse bisognerebbe pagarle, perché tu comunque fai un lavoro come un altro, secondo me. Però capisco. Non penso che sia un lavoro come un altro, ad esempio. E quindi, poi scusa, leggo un'altra cosa, cara Lala. Se vuoi fare tutto al naturale o analisi aggiornate da mostrarti, dunque fai anche senza preservativo, questo è il punto. Ascolta, mi avete rotto i coglioni, buongiorno. Ho capito, ma l'hai scritto tu lei? Questo? Ma questa cosa è impazzita, ma va a far culo, lei? Sta stronza. Richiama sta stronza. Una roba incredibile, cioè una cosa pazzesca, guarda. Se vuoi fare tutto al naturale o analisi aggiornate da mostrarti, sono sana come un pesciolino oceanico. Ma cosa attacchi il telefono? Che fai? Attacchi? Cosa? Sei pazza? Mi sono rotti i coglioni di dover parlare e di dover rispondere. Ma a l'hai telefono. Scritto tu, se vuoi fare tutto a naturale o analisi. Ma vai ciao. A cagare, vai. Ma cagare. Cosa anche ciao. A cagare se mi pagano, rimbambito. Se vuoi fare tutto a naturale o analisi. Ma come si permette? È la prima volta che litigo con una prostituta, non ho mai litigato con una prostituta in vita mia. No, ma come si permette di agganciare? Ma sono sempre dalla parte delle prostitute in generale, ma questa qua, cioè, dai. Allora, abbiamo Rossella da Roma, vai. Ciao, Dimmi, Rossella, io sono dimmi. Napoletana, chiamo da Roma ma sono napoletana. Vabbè, pazienza. E ci tenevo a dire, parlate di Catanzaro, di Cosenza, ma parlate di Napoli. E venite a Napoli perché le napoletane sono super pose, passionali. Vabbè, ma chi se ne frega adesso? Passionali ce ne sono ovunque, non è che sono solo a Napoli. No, cioè, no, no, guarda, le napoletane. Cioè, le donne sono. Ma che no, cazzo no, stai? No, no, sono molto molto diverse. T'assicuro che a nord, amica mia. No, lascia perdere. Sono va. Elite, sono, vabbè, che vuoi, non sei. Stato con Napoli, voglio dire, ma figuriamoci, a voglia. Ma che vuoi di più? Non ho capito, che vuoi? Di che vuoi parlare? Niente, volevo soltanto dire che forza Napoli, che ha vinto contro la Juve. Chi se ne frega, è successo 20 giorni fa, lei non ci rompe i coglioni, Alessio da Treviso. Alessio, Alessio da Treviso, ma chi se ne frega, Alessio da Treviso. Pronto? Dimmi Alessio, dimmi. Io volevo intervenire ieri sul fatto del governatore. Metti bene il telefono, ragazzi, non ne posso più. Ce l'ho no, non ce l'hai messo bene. No, togli qualche cosa perché ti sento male, fermati allora, dai. Ma sto fermo, chissà che finestrino, sto crepando dal caldo. E chi se ne frega, c'è viva voce all'auricolare. No, no, è viva voce. Vai, dimmi, dimmi. Sulla Ceccardi di ieri, che Parenzo, cioè, o non capisce, o fa finta di non capire, che quando uno di sinistra insulta qualcuno che comunque fa riferimento alla destra, lui liquida tutto sempre con ma sì, no, veramente Parenzo ha detto che ha sbagliato. Parenzo ha detto che ha sbagliato. Ha detto che ha sbagliato il candidato. No, il candidato alla presidenza della regione Toscana ha sbagliato a usare quel linguaggio, esattamente il contrario, ho detto. Ma lo dici sempre. Sì, in una maniera molto soft, molto soft. Fermi tutti, fermo là. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta, ascolta. Io ho l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda. All'abbiato, guarda di mia collo. Guarda, Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia. Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia. Donald Trump. Allora, Luciano, ti volevo chiedere quando hai vomitato merda sulla Calabria, chi ti ha pagato? Ma vai, chi ti ha pagato, cazzo? Dillo, sei il coglione! Dillo, chi ti ha pagato? Chi ti ha pagato? Vabbè, adesso vi mando a fare in culo. Te, Nullo, quei coglioni di Cruciani, quel forcione di Forza Renzo, e tu c'è la combriccola Lungoni Coglioni, Ramelli, ciucciami gli uccelli, e anche quelle, il coso, lo stupratore di Boston, Poli. Affanculo, ragazzi. E allora ragazzi, andiamo avanti con Tipi da Zanzara, il mitico Dimitri da Belluno, vai! Tipi da Zanzara. Dimitri da Belluno, vai! Dimitri, sì, dimmi. Io ho ascoltato la prima parte della trasmissione, è la prima volta che ascolto la vostra trasmissione, la prima volta perché mi è capitato di accendere la radio, sì, che era in macchina di solito, sì, questo ho fatto altro,

Lei sa che cos'è lo squirting, per esempio? Le ripeto ancora una volta. Lei mi sta portando su un terreno che ma non lo è sa mio. O no? Lo sa o no? Guardi, se non lo sa, rispondo, attraverso questa trasmissione lo riesce a sapere, viene a conoscenza di cose che lei non sa. La prima e l'ultima volta che ascolto la sua trasmissione. Vabbè, ma questo l'abbiamo già detto. Ma questo l'abbiamo già detto. Ha ragione, questo l'abbiamo già detto. Ma di che cosa mi sto sbagliando? Di che cosa? Ma su che cosa mi sto sbagliando? Su cosa? Ma è impazzito completamente questo qua. Lei si sta sbagliando. Ma mi ha rotto i coglioni, ciao. Ma su cosa? Tipi da zanzara. E allora ragazzi, andiamo a Luca, provincia di Venezia. Vai Luca, dimmi. Luca? Pronto? Dimmi Luca. Sì, bella Crux. Volevo salutare anche Homer Simpson lì. Cioè, Parenzo è diventato Homer Simpson, no? Chi? Parenzo è andato via, è andato alla 7. Ma come è andata alla 7? È andata alla 7, amico mio. Se vuoi metti collegati, è andata alla 7. Ma no, devo parlare di Tam e di Parenzo. Ho capito, chiama domani alla stessa, in un'ora in cui lui c'è ancora, fino alle 8:30. Ti chiamiamo domani e gli chiedi quello che devi chiedere. Se vuoi faccio da, come dire, da intermediario. Dimmi ma che cazzo? Allora non rompere i coglioni, non c'è. E non puoi collegarti perché non ci puoi parlare. Ma che sei rincoglionito? Ma che c'è nel cervello? Le pigne? T'ho detto che non c'è. E che cazzo? Dai, non c'è. Cosa vuoi che ti dica? Oh, ci sei o non ci sei? O sei rincoglionito? Sì, e allora che vuoi? Dimmi. No, niente, volevo Massimo da Pavia, vai a fare in culo, Massimo da Pavia. Dimmi. Volevo intervenire per il gattino. Dunque, nessuno mette in dubbio che quell'essere umano, quell'essere aveva fame, ma è stato fatto apposta, perché anche se io ho fame prendo un gatto lì a un paesino con tutta la campagna che c'era, dove proprio davanti alla stazione doveva andarla a cucinare. Allora, calma, è stato fatto a sfregio, è stato fatto a sfregio. Ma cosa è stato fatto? Gli italiani idioti che gli danno anche ragione. Ma cosa è stato fatto a sfregio? Non ho capito, cos'è che è stato fatto a sfregio? Cucinare il gatto davanti al piazzale della stazione con tutta la campagna che c'era, deve andare a fare, deve cucinare. Ma magari l'ha trovato lì quel gatto, no? Ma non l'ha trovato lì, l'ha fatto a sfregio, l'ha fatto a sfregio per dimostrare che loro qua fanno il cazzo che c'hanno voglia, e ci sono gli italiani idioti che lo difendono anche. Questo paese è un paese di merda, punto. Allora, e basta. Calma Massimo, allora calma. Cazzo, uno può anche avere fame con tutta la campagna. Io se avevo fame prendo un gatto, vado in mezzo alla campagna a cucinarmelo, non lo cucino davanti alla stazione. Ma che cazzo di italiani di merda siamo diventati? No, questo... sì, porco che. Porco zio, sì, vabbè, siamo al limite, porco zio, va bene. Allora, dico una cosa Massimo, tu sei molto nervoso, mi sembra, sei molto nervoso. Sì, sono nervoso, sì, perché vedo che qua voce impastata, voce avanti, più le cose peggiorano. Voce impastata. Che giustificano tutte queste cose qua, ma quando mai sei nei tempi di guerra? Non siamo in tempi di guerra. Questo è vero, infatti ho detto, caro Massimo, se uno proprio ha fame, se siamo in una situazione di disperazione, di ma fame. Ma in mezzo alla campagna a cucinarmelo. Ma se quello stava là, e ti ripeto. Fatta a sfregio, Cruciani. Ma se uno stava là, che devi fare? Se uno sta là, sta ma là. Ma in mezzo alla campagna. Ma se l'ha trovato lì, se il gatto, se quello dimora, cammina. Non sto scusando. A che fare? Si passa da quello a che cosa? A tagliare le teste? A che cosa? Si passa da quello, poi è sempre una cosa che va a peggiorare la situazione, ragazzi. E lo giustifica, no? Perché sembra una cosa normale. Cucinare un gatto davanti a una piazzale di una stazione. Quando cazzo mai si è visto una cosa del genere? Ma io non ho detto... Negli ultimi 70 anni, 80 anni, quando si è visto? No, magari non ditemi una volta che si è visto uno che ha cucinato un gatto davanti a una piazzale di una stazione in questo cazzo di paese. No, di non si è visto. Calma. Perché sei così nervoso? Perché sei così nervoso? Vedo sto cazzo di paese che voce... sta andando nella merda. Hai la voce un po' impastata, però, secondo me, Massimo. No, sei su di giri? Io te lo chiedo, una domanda. Sei su di giri per qualche cosa? No, è una domanda, perché ti vedo incazzato, hai visto quelle immagini e hai detto cazzo. Io ho dei problemi di psicologici, Cruciani. Io c'ho... Di che tipo? Sono disabile mentale, Cruciani. In che senso, scusa, Massimo? C'ho dei dei problemi psicologici. Ma non mi sembra, mi sembra così. Però scusa Massimo, non mi sembra, perché anche per carità uno può contestare, ma non mi sembra proprio disabile mentale. No, ma io ho problemi a, come si dice, a non trattenere la rabbia e così, infatti sto sempre chiuso in casa da solo perché non riesco più a scatti d'ira, dici, ad scatti andare d'ira. D'accordo con nessuno in questi, la gente non la riconosco più, non riconosco più il paese in cui sono nato, che si giocava in mezzo alla strada, due chiacchiere, una birretta al bar, la discoteca, cioè praticamente la funzione, non tutti sti cazzo di problemi, calma, lo vedi che monta, lo vedi che monta la rabbia monta la rabbia. Un paese che il nostro problema era quello di andare di come si dice di dove si andava a ballare il sabato sera, ragazzi, ho capito, amico mio, ma adesso non è che tu puoi sulla bella vita in Italia, abbiamo un paese, hanno lasciato un paese che è una meraviglia, la stiamo riducendo una latrina, però, e scusami, questi continuano a difenderli, cazzo, chi li difende? Ma chi li difende? Chi sta difendendo? Chi è che permette tutto sta cazzo di immigrazione clandestina? Ma questo è uno che si è cucinato un gatto davanti a una stazione vicino a Livorno, carità, ma non sto dicendo che è normale, lo condanno pure io, però è un episodio, non è che abbiamo visto ogni giorno gente che si cucina gatti e cani in mezzo alla strada in Italia, no, è un episodio. Abbiamo visto ragazzine violentate da 7 africani, abbiamo visto ragazzine tagliate a pezzi da 10 africani, Massimo, visto spaccio, uno spavo, dove, oh, chi non le vuol vedere le cose non le vede, Cruciani, io sono malato di mente, ma le cose le vedo belle chiare. Che vedi non chiaro? So se sono io pazzo o è la società che è impazzita qua, Beh, adesso mi sto rendendo conto che sono io pazzo o è la società che sta impazzendo completamente qua. Tu conosci... Perché non si può scusare, caro, una roba del ma genere. Chi sta scusando nulla? Tu conosci il demone scimmia per caso? No, non conosco il demone scimmia io. Sì, ci ha mandato anche dei messaggi su questo. No, non conosco, io sono di Pavia, non sono. Ma lo conosci così alla radio, non è che lo conosci personalmente, il signor demone, quell'altro è Piemonte. Ah, sì, vi sento, adesso sarà un anno e mezzo, due che vi ascolto io. Il signor demone scimmia. Il signor che funzione ha la zanzara per te? Cioè per te nella tua testa che funzione ha questa trasmissione? Ascolto i pareri, ma vedo che la maggior parte delle persone non la pensa come me, ma anzi la maggior questo parte è normale, delle persone, ma questo scusa quella persona, ma non è vero, nessuno lo scusa, gattino indifeso, l'ha ammazzato come un cane, come un pezzo di legno e l'ha cucinato davanti ma a una nessuno piazza della stazione, ripeto, se aveva fame ma nessuno lo scusa, ma cucinava e nessuno vedeva niente, ma nessuno lo sta scusando, ma nessuno lo sta scusando, amico mio, nessuno, no, ti ma assicuro. Lì però ti sto dicendo che è una cosa fatta a sfregio, è proprio per far vedere che lui in Italia fa il cazzo che vuole, come la maggior parte dei clandestini che viene in Italia, questo è il risultato. Lo ciao. Volete capire o non oh, lo volete no. capire? Ciao Massimo, ciao ciao. Ciao, ciao Cruciani. Tiene però, rimessa laterale per la Lazio. 10 minuti nella seconda. Che pezzo di merda, Oscar da Reggio Emilia, vai. Oscar da Reggio Emilia. Cruciani? Dimmi. Cruciani, ascolta, devo correggerti un'inesottezza che hai detto, una cazzata in pratica. Che ho detto? Hai detto che per legge in Italia non si possono mangiare cani e gatti. Beh, no, per legge non si possono cacciare, nel senso che non si possono mangiare. Non è vero. Ma non ho detto vero, che non esiste. Non si non possono uccidere, legge. Ho capito, lo puoi mangiare. No, non esiste nessuna legge. Ma ho detto prima, Oscar, che se questo qua avesse trovato, se questo signore immigrato, fuori, non credo, senza permesso di soggiorno, non lo so, comunque gli è scaduto, non lo so, non mi interessa, avesse trovato un cane morto o un gatto morto per strada, l'ho già detto, lo avesse trovato già morto, lo avrebbe potuto mangiare tranquillamente senza problemi. Fare arrosto eccetera, perché è d'accordo, però il problema è che in Italia non abbiamo una legge, abbiamo una legge che sul maltrattamento degli animali. Vabbè, d'accordo, hai ma non capito? La mettiamo su questo punto, lo so, capito Oscar, ho capito che poi che non li puoi maltrattare. No, nessuno uccidere. Ti impedisce di uccidere un gatto e di mangiartelo. Ma che cazzo dici? Ma non è vero. Ma se se uno viene condannato per il maltrattamento, lo sarà anche se ammazza un cane o un gatto, no? Ma no, che cazzo dici? No, perché dimostra davanti al tribunale che aveva fame. Ma che ne sai tu, scusa? E quindi lo so perché faccio il veterinario e il giornalista. Ah, no, tu fai, allora aspetta, è interessante questa cosa qua. Tu, ma non è che, ma tu, anzi, non è... approfitto per, scusami, approfitto Oscar, ma non è che sei Grazioli, ma sei Oscar Grazioli tu, scusa, non ho capito. Sì, sono Oscar Grazioli. Oh, perfettamente. Allora, dunque, Oscar, fammi capire una cosa. Secondo te, se uno ammazza un gatto o un cane per mangiarselo e dimostra che lo fa per necessità, non viene condannato? Esattamente. No, dai, non è possibile. Non dire che il maltrattamento, trovami l'articolo di legge che. Ma è chiaro che se tu ammazzi, un gatto o un cane, no, è peggio del maltrattamento. No, se tu lo uccidi in modo corretto, allora, con i 500, eccetera, eccetera, non è maltrattamento. 544 ter codice penale: chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a servizio o a comportamento. Una lesione, che c'entra? È chiaro che anche una lesione che provoca la morte, no? Ad un animale, ovvero lo sottopone a servizio o a comportamento a fatica o a lavoro insopportabile, le sue caratteristiche, è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa. Allora, la stessa pena si applica a chiunque. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Dai, Oscar, sarei pure un animalista, ma non hai capito un cazzo. È chiaro che non lo puoi ammazzare un animale per mangiarlo. Sei punito leggi bene le disposizioni puoi ammazzare per mangiarlo un cane o un gatto, ma io non lo puoi fare. Ti dico che la legislazione italiana, va bene, ne parleremo, fermi tutti, italiani! Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8 ragione, sente la zanzara, vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Chi ti ha pagato, cazzo? Dillo, sei il coglione.